anch'io non capisco tutto, però finché lo vedi scritto magari fai pausa, cerchi un termine che non trovi, però quando parla in radio bene o male si capisce, a me, bene o male. Certo, se guardi un telegiornale in lingua inglese, anche con i sottotitoli è comunque un po' dura. Io non sono pratico di inglese, ben poco, dai. Invece Gianfranco, tu inglese o francese? Hai chiesto a me, Gianni, francese, anch'io alla media. Io l'ho fatto alle medie e alle superiori francese, capito? Quindi ho fatto sempre francese. No, a me piace, sai perché c'ho parenti in Francia e cose. Quando vengono qua, se non parlano in francese, stanno zitti e non parlano, capito? Loro parlano solo francese. Il francese era più facile rispetto all'inglese. L'inglese c'è questa cosa della pronuncia che è micidiale per noi. Poi, attenzione, mon amici, qui ti dico la Sorveni che ti fa pezzo. Avanti, Marco, Condor, se non c'è nessuno che vuole entrare, lascia un po' di bianco. Vabbè, per quanto bianco lasciamo, alla fine poi non entra nessuno. Anch'io adesso chiudomi già, devo fare altro. Piuttosto un attimino che vado a guardare quel video che mi hai mandato, non l'ho guardato. A frappè. Gianfranco, vai. Anch'io dovrei andare a cenare, solo che non so cosa cenare. Sono un po' impallato. Prenditi una pizza, Gianfranco. Di norma ne mangio la metà. Prendo quelle surgelate. Mi accontento di quelle perché sennò dovrei uscire. E quindi, però ne mangio sempre la metà e poi l'altra metà la lascio sempre congelata. Perché sennò non ce la faccio. Esagerato, solo metà ne mangio. Io me la compro anche con doppi frutti di mare, perché mi piace non bene. Me la prendo con doppi frutti di mare. Ho guardato il video, interessante già. Vero? Ma non... era casuale, no? Cioè non credo che fosse per Francesco, sarà così, tanto per. Non lo so, l'avete messo da lui. È lo stesso discorso dell'altra volta, quella portante che c'era tipo su Giulio, la mettevano a lui perché a lui era l'unico, credo, che potevano coprire, presumo. Che te devo dire, insomma, quasi ogni giorno portanti, dai, non le pare più, questo hobby è rovinato. Per fortuna non è sempre così, da, quando gli viene l'Alzheimer la mette e poi non le mette più. Poi io motivi non li conosco, non posso già dare ipotesi. Aspetta un attimo, prova, quattro dita dal mic, vicino al mic, ok, prova finita. Già, però non dico ogni giorno, ma un giorno sì, uno no, sento dei portanti. Che scemagna, la pizza. Io stanotte c'ho il pure di patate pronto. Ciao Claudio. Patatto! No, io c'ho la manzana parmigiana, è un po' di roba, l'ho portato al bar mia figlia. Dopo mi siedo e me la mangio. Marco, non è un giorno sì, un giorno no, non è sempre, perché io sono sempre una scorta, c'è sempre. Ecco perché la gente sta entrando di meno. E anche io, perché io ho già dichiarato e lo ribadisco, non mi metto più in mezzo, quando c'è qualsiasi, se si può fare lo faccio, altrimenti spengo, non me ne frega niente, tanto a bisticciare con la gente, capito, tutto qua. Cosa stai usando già, il Manium? No, sto usando l'Intec col cogio, con l'MDM, come si chiama, DM1000? Col Prox, sì. Va bene. Cavolo, c'è una ricezione, sta parecchio, Claudio. Qua suoni molto bene con quel mic. O con quell'apparecchio lì suoni molto molto bene. Sto usando la Linco, che era un bel po' di tempo fermo. Avete parlato in due, però ho sentito a te. Cosa hai detto già? Che ce l'avevano con Uranio stasera. Sì, non li viene con Uranio, non li viene con Claudio Sparviero, non li viene con Gianni, non li viene con Marco. prenderò quelli più bassi, sicuramente. Capito? Non so, faccia come vuole, ma è già, te l'ho già detto, mi passò un attimo, ribadisco in radio, a me non me ne fotti più nulla, io se si può parlare parlo, se no non mi interessa, non metto più in mezzo ai fatti di nessuno, che si arrangia, intanto. Ora ma siamo arrivati alla frutta, 4 watt, cazzo, non ci possiamo vedere uno con l'altro. Quindi Marco, riceve bene quella radio. Buonasera a tutti. Ciao Bomboli, ben entrato. Sì, questa è una tonalità più calda di ricezione, non è come il 3009 che è più acuta, leggermente più acuta. È bella, bella piena è la tua, bella, bella piena, con i toni bassi che ci devono essere, insomma. Oh, nonostante tutto che ci abbia un altoparlante più piccolo del normale, questo Alinco, non ha l'altoparlante del 3009, è leggermente più piccolo, però suona bene. Vai Antonio. Bombolino! Buonasera a tutti! Io sentito, sono entrato subito, che adesso vado a cucinare, vado. Stasera faccio un po' di tottani. Capito? Vabbè, stavo sentendo. Qualcuno è un po' così, io voglio bene a tutti, non mi interessa. Ok, dai, continuate, che io scendo giù. Ehi Anto, come li fai col pisino? Come li cucini totale col pisino? No, li faccio frissi con la farina. Ah, ma i totali sono un po' duretti, Vabbè, come i calamari da rifare, Già ho capito, speriamo che siano teneri, perché solitamente sono un po' duretti i totali. Andate Anto, buona cena allora. E ok, dai, continuate. Ciao Claudio, ciao Marco, ciao a tutti. Ciao, continuate voi. Ciao bello. Ciao tu, ciao, buona cucinata, dai. Vai Gianfranco. Sì, ciao. Ciao Antonio, buona cena. Claudio, ti volevo fare una domanda, però capiscimi al volo. Quei numeretti che ti ho dato, poi hanno funzionato? Cosa fa? Minchia. Ho detto, sono stato poco fa, ma io mi stavo cambiando, lo so, mi ha fatto la porta del cane. Gianfra. Se mi spacchi la testa in questo momento, minchia. Allora, ti ho detto che da una certa parte si ascoltava una cosa e ti ho dato dei numeri. Capito? Sì, perdonami, sì. Perfetto. Ho sentito qualche cosetta, Gianfra. Ma non ti nascondo che sono molto assente dalla radio, molto assente. Perché praticamente qua in stanza non c'è rimasto più niente, quindi non c'è neanche più soddisfazione a stare molto come stavo prima, capito? E quindi, però quando sono qui ho visto proprio ieri che c'era qualcosa di interessante, dai. Ok, grazie mille. Tra l'altro poi non so se era l'ora in cui c'era anch'io e che c'era casino dalle parti nostre, per intenderci. Insomma, puntini, dai, che mi hai capito. Tutto lì. Comunque, insomma, per dimostrare che comunque c'è qualcosa, ecco, non è tutto oscuro. Vabbè, è così. Sono 19:51, tra poco mi verrà qualche idea per la cena. Riprendi Gianni? No, io stasera mi ho mangiato un po' di formaggio di salsiccia, c'è là, vai al centro cane a comprare la salsiccia che è favolosa, ho preso questa salsiccia così buona. Dove già? Al centro cane, ma non sai quanto è buona, di quella fumicata buona, proprio saporita. Ehi, io la prendo sempre qua la Cobra, che già, che c'è quella di Belvì, hanno portato quella di Orlena, tutta fumicata. E poi sinceramente vado il lunedì al piattare Scegna a prendere la ricotta, la fresa di ricotta, ricotta mustia, queste cose. E prende anche salsicce e tutto lì dalle parti di Osero, San non li capisco. Lo c'è in faccia già che è molto buono. Oh, se capita che vado lì alla stazione del carro, mi stai dicendo, da ex Verga, ti vado e la prendo. Bene, bene, bene. Avanti, Marco lì. Marco, ma chi so? Mi avete chiamato? No, a Marco abbiamo chiamato. Sì, no, stavo provando su un altro canale perché io non vedo i LED che si accendono quando modulo, boh, non vedo picchi di modulazione, appena li vedo, ma boh, ma sto uscendo normale dico, non amplificato. Sì, Marco, esci bene. Sì, sono questi smitter a LED, che poi non sono LED, sono LCD, cristalli liquidi, no, no. Non servono un granché, dai, meglio a lancetta quando possibile. Anch'io preferisco. Solo che ormai già gli apparecchi stanno facendo tutti così, c'è tutti i CB nuovi, questi almeno che hanno l'SSB, l'FM, no? Tutti con cosa cristalli liquidi, vabbè, pazienza, vai Claudio. Ma questo che stai dicendo è questo amico? Aspetta la domanda, cosa mi hai chiesto? Sì, questa è la Linco, però è un baracchino e non è un HF, è un volgare baracchino, ma non l'avevi visto perché? Quello che somiglia molto al CRT 6009. Ah sì, ma è malato, no, perché la Linco ce l'ho anch'io, il 599D, però è VU, capito? Base VU, di vecchia generazione, quello l'ho tenuto quello e... E poi il 275H, in modo che abbia due radio separate, lui uguale, gli altri li ho tutte vendute. Pensavo di non, invece, minchia, una dietro l'altra proprio, vabbè, sono contentissimo, ma fatte fuori, non vi piace più. Mi tengo con le poche cose che ho ordinate, e se la biglietto luce, tanto non si è venuta. Avanti Gianfra. Comunque non è esattamente vero che non c'è nessuno in frequenza. Fino a pochi secondi fa c'erano 4 stazioni trasmettendo in 27, con segnali anche abbastanza importanti. Come siamo noi nel canale 10, la solita rotta del 23, come ricapita e ci sia qualche ora di mattone sul canale 20 a fare due prove tecniche di trasmissione, dov'è questa gente già fra brutto? Io no, io a volte spazio, ma non per mani su, vabbè, magari con la strumentazione te ne accorci, non lo so, vabbè, comunque, l'importante è che ci siamo, anche se non tutti i giorni, l'importante ci facciamo sentire, gappa gappa. E beh già, cosa ti hanno detto per il microfono? Hai fatto sentire a Marco, va bene? Va benissimo, dai. No, Marco no, l'ho fatto sentire a Urania, mi ha detto che stavo facendo un bel forte, che doveva passare a Usino. È una bella modulazione, cioè, l'ho provato in cuffia, l'ho provato bene, ti dico ieri, mi hanno detto tutti che era una cannonata. Adesso sfruttatelo, usalo, già andrà bene. Ah, ho Marco lì. Se non intervenivo, mi ha cacciato la mondetta, ce l'avrebbe buttato, cazzo. Ma alla fine dei giochi qual era il problema principale? Cos'era la scheda che toccava qualcosa oppure altro? Allora, per quanto riguarda il PTT, il fatto che si abbassava la modulazione era quel difetto che appunto io ho riscontrato anche nel mio, quindi però quello lì non ha i due angolini, toccava centralmente nella scheda per far sì che il PTT vada fino in fondo. Ho fatto un taglietto dalla casa, è un concavo tipo una V, però era molto stretta, siccome lì non c'è nessun aggancio, la scheda è vuota, il circuito stampato è vuoto, allora gli ho tutto limato con la lima tonda, ok, in modo che arrivasse sino a fondo, e quello risolto, tutto pulito e risolto. Poi quando mi sono messo a provarlo, gracchiava, fischiava, una cosa allucinante. Ok, ho detto ma qua c'è qualcosa che non va, quindi l'ho tutto aperto e ho visto che c'era un ponticello che hanno fatto, non di certo Gianni perché Gianni l'ha preso così, un po' raccato di cane, hanno fatto un ponticello dal circuito stampato al praticamente il positivo dell'alimentazione della batteria che va a alimentare poi anche la capsula. Insomma, hanno preso l'alimentazione dal circuito stampato sistema, oppure ipotetiamente sono andati a farsi fuoco. Ho disallato tutto, Marco, ho completamente disallato la scheda da quei 4-5 fili che ci sono, me la sono portata in bagno, e l'ho tutta lavata prima con la trenina, che non ti dico cosa ne è uscito, di nero, di sporco, e poi con l'alcol, sempre col pennellino, fatta asciugare bene. E puliti i potenziometri con la trenina, tutto ben fatto, ma c'è un PTT gianni allucinante, qualcuno venne così, lo sfiori col dito e fa l'occhio, il mio invece lo deve accompagnare, è uscito un capolavoro, e niente, ho tutto ripulito, tutto ripiazzato, e il microfono è una canonata, va benissimo. La storia dell'MP5. Già, ma guarda, secondo me è un difetto di fabbrica, a prescindere, vabbè, quello lì voleva pulito, e vabbè. Ma questa cosa del PTT, molti si sono lamentati, perché io l'ho comprato nuovo già, ha funzionato di lì e poi, stavo parlando con te e mi si abbassava la radio. Tino lo stesso, ma l'ha già fatto da tempo, l'altra gente lo stesso l'ha già fatto da tempo. E sicuramente sono difetti di fabbrica, proprio come lo costruiscono, che c'è troppa plastica, che è troppo preciso, capito? E quindi si taglia o con quei pomellini, o si fa il tagliettino concavo come il tuo, poi i microfoni qualità prezzo vanno benissimo, hanno una bella radio, no, Gianni c'ha una bella capsula, ben ordinato, il microfono, ti dico che è nuovo, Marco, funziona bene, c'era da darli questa sistematina e basta, ma modifiche non ne ha col microfono, va benissimo così. Insomma, praticamente è una cosa che colpisce un po' tutti gli MB più 5, così, e anche i più 4. E quelle perché mettono componenti, anche tutto, plastichette, che tutto in economia è fatto. È un pasticcio, non fa nemmeno a comprarne in roba perché tanto dura poco. No, vabbè, ma quali tappeto sono microfoni che vanno bene, Marco, io ne ho quattro di MBP5, compreso quello testato Kenwood, capito? Vanno bene. Quello di Gianni, chiaramente, lui l'ha comprato così, chi ce l'aveva, ha fatto queste due cosettine, magari non rendendoci conto che poteva fare il rientro, e quindi gli ho tolto, data una pulita, sistemato, benissimo microfono nuovo. Riprendi Gianfra? Sì, aspettate, blocco qua. Cosa volevo dire? Che io me ne sto andando a cena, perché a parte che c'è freddo, mi inizio a sentire freddo, poi direttamente a nanna. Certo, la sera arrivata a una certa ora, soprattutto stando fermi, si sente una maniera micidiale, si vede fuori il gelo. Vabbè, saluti a tutti, buon proseguimento e buona serata. Ciao Gianfra, qui in campagna c'è sempre più umidità che in città, dai. Avanti. Ciao Gianfra, grazie per le chiacchiere, buona serata, buon tutto e buona cena. Vai Marco. Ciao Gianfranco, buonasera, buon tutto e ci sentiamo le prossime. Chi altro c'era? Bombolo, vediamo se era entrato dalla cucina. No, full immersion. Volevo chiederti già, ma tu sei attaccato adesso? Sì, perché stavano mostrando la portata e non sono dimenticato a te. Ah, tuttora? Adesso no. Vabbè, te l'ho detto, il Covid ha portato portanti. Bello, interessante. Audio, poi vai su internet e guarda quanti gatti ci sono in vendita sui B. Quanti gatti? Duck, Marchi 5, Duck. Marchi 5? Ma Marchi 5 è un Duck. Io ho il Marchi 10. Comunque ce ne sono di diversi modelli. Praticamente arrivano sino a 500, partono da 270 sino a 500. Ti ha giudito che è una cosa allucinante, ha un valore molto molto alto con la radio. No, io ho il Mark 10, io ho il DAC Mark 10, ok? Mark 10, forse devo avere la foto se uguale al mio, perché il mio è completo di tutto, capito? Completo di tutto, cioè tutti gli strumenti. C'è il ROR, metro wattmetro, modulatore, c'è la tensione dell'unica della valvola in trasmissione, tutto, c'è quattro strumenti completi, e poi c'è tutti lì, tutto, c'è anche la GC, il livello dello smitter, come gli HF, come gli HF. E poi il mio non è 40 canali, il mio non è 40 canali, il mio è 240 canali, capito? 240 canali, cioè tre bande, avanti io ho 160 canali, tre bande sono, no 120, 120 canali, 4 per 3 12, 120 canali, con l'SSB, vai Marco. Sì, ma poi ho visto che il Mark 5 è un baracchino di dimensioni normali, non è grande come quello lì. Baracchino normale. No, Marco, c'è quello come quello di Claudio, uguale con gli strumenti, tutto quanto, guarda bene. No, quello è il Mark 10, non è il Mark 5, quello è il Mark 10 come il mio. Gianni, se tu vedi la X è numero romano, è 10, la 5 invece è numero romano, è la V, se io metto Mark V, Mark 5, ha le dimensioni di un baracchino normale. Sì, sicuramente hai visto quello di Claudio. Poi c'è il 9 che c'è scritto IX, capivo, una stanghetta e la X, quello è 9, Mark 9, c'è qualcosa in meno, credo. E ce ne sono tanti modelli, sì, riconosco i numeri romani, Marco, li conosco. E niente, ce ne sono di diversi modelli, li ho visti, infatti di modello c'è il suo prezzo, però arrivano fino a 500 qualche cosa, partono a 270 in su. Diciamo che non penso che li facciano 40 canali, un apparato così grosso 40 canali, mi sembra strano. Sì, 40 canali sono, 40 canali, però c'è la modifica, capito? Evidentemente chi aveva questo che io l'ha chiesto già con la modifica. C'è un tasto, perché c'è un sacco di levette, se tu guardi, no? C'è un sacco di levette, c'è la calibrazione, c'è. Nel mio ce n'è uno in più, dove c'è praticamente il coso dei canali, capito? Praticamente tre posizioni fa questa levetta. I sotto sono i canali sotto l'uno praticamente. Al centro sono i canali normali e sopra la levetta in alto sono i canali dopo il 40, capito? Dal 40 all'80. Questo che ho io, modificato dalla casa, non lo so, modificato da chi, non lo so, comunque è così. Non ha né altro, non si vede niente, c'è solo questa levetta dove c'è A, B, C e B, capito? Quello è il Mark 10, Mark 10, gli altri sono Mark 5, Mark 9, già ce n'è. Ascolta, e il prezzo del mio te lo dà, del Mark 10? Adesso devo andare a controllare. Cosa ma qui? No, un break ho sentito io. Avanti break. Buonasera. Sto provando un baracchino, volevo sapere di modulazione se va bene, alta, bassa, media, capa. Ciao Giovi. Ciao doppio. Ciao Vittorio, 9, quasi 20 radio super 5, non c'è problema Vittorio. Ma è bassa oppure media? Bassa, media, alta, com'è modulazione? Piacevole, è un nome diverso ti do io. Sì, media, non è altissima, media, comunque va bene Vittorio, piacevole da ascoltare. Basta che non sia scarsa, ma è microfono normale, quindi tutto a posto, buon proseguimento, ciao a tutti, ci sentiamo, grazie, ciao. Ciao Vittorio Giove, ciao, un abbraccio, ci sentiamo, vai Marco lì. Sì, ottima modulazione, volume assolutamente non bassa, quindi va benissimo. Aspetta, è arrivato un messaggio, mamma mia, è una dannazione questa cosa per gli aggiornamenti, per gli smartphone, ogni AD aggiornamenti, a cosa ti vuoi aggiornare? Io una settimana WhatsApp che mi mandavo aggiornare, non ricevi più niente, non qui, non là, e stava funzionando bene, poi l'ho fatto l'aggiornamento e c'era Bigliello C, sono qua sempre arrivando messaggi, capito? Carino comunque il Mark 5, per me che piacciono i veicolari, quelli compatti. Va bene, sto cominciando a perdere quota, tipico di quest'ora. Tipico di quest'ora, anche ieri si è sollevato un vento, anche adesso si è sollevato il vento di nuovo, va bene, che si sollevi quanto vuole, ormai non devo tenere più niente. Ehi, hai fatto Piazza Pulita, Claudio. Comunque, hai visto quante belle giornate con soleggiate, tempo stabile. Già da un po' che dura. Per uscire andava bene a fare giretti, sennò poi tanto andranno a spingere sul lockdown totale, vedrai. Che palle, guarda. No, non penso. Ho sentito il mio vicino di casa, che è in regione, il consigliere regionale, mi ha detto no, abbiamo fatto anche la riunione di capigruppo. Non c'è questa grande necessità per il momento, poi vediamo. Ma comunque penso che non metto, perché la cosa principale non è tanto i contagi, perché è chiaro che aumentano tantissimo, non sono tutti asintomatici, perché i tamponi stanno andando a ruba, però la cosa principale che abbiamo incasinata è la sanità, cioè gli ospedali non c'è più posto, tanto è vero che penso che facciano un'ordinata per chi ha sintomi veramente da Covid e necessità di ricovero, va bene, altrimenti quarantena a casa, perché è utile intasare gli ospedali, capito? E allora sono i giornalisti però che ingrandiscono la cosa a dismisura, Claudio. Non fanno altro che dire tipo la nuova, decuplicati positivi a Sassari, cioè sempre notizie allarmistiche. Vabbè, per me non me ne frega niente, a me dispiacerebbe solo per mamma se rischio di contagiarla. Vabbè, che situazione strana, mai vista una cosa del genere. Ma Marco, io rispetto i giornalisti, rispetto la TV e rispetto tutti, però sono grandissime affrontate, perché questo che ho parlato io in regione è proprio tra ieri e oggi, non sta praticamente a Cagliari, non sta manco rientrando a casa, perché hanno sempre riunioni, contro riunioni e sono informati di tutto. Capito? Sono informati di tutto, c'è solo allarmismo e basta, perché sì, è vero che stanno salendo tantissimo, ma sono tutti asintomatici, contagi non sono contagi veri e propri, sono asintomatici, quindi salgono i numeri, ma non è un allarmismo vero e proprio, altrimenti saremmo già stati per i numeri che abbiamo in zona rossa, capito? Non c'è nessun'altra restrizione per il momento e va bene così. A breve ci sarà un'ordinanza del Presidente della Regione in concomitanza con i sindaci delle varie città, come Sassari, Orbi, Alghero, dove sono gli ospedali, Ozieri, eccetera, Tiesi, dove sono gli ospedali, e praticamente ci sarà l'ordinanza fatta dalla Regione, ti ripeto, poi sarà il sindaco a emanare l'ordinanza, dove chi ha veramente sintomi da Covid va ricoverato, ok? Soprattutto le persone anziane. Chi ha altre cose dove si è asintomatico, ha i sintomi da Covid, via a casa in quarantena, rompi i coglioni, perché li stanno intasando gli ospedali, capito? Ognuno, cazzo, un raffreddore, una clorolionata, un capogiro all'ospedale, pronto soccorso, è tutto pieno. Sì, a parte che gli ospedali nostri sono in crisi perenne anche al di fuori del Covid, siamo sempre al di sotto dell'organico, i posti di letto occupati, pieni, il pronto soccorso bastano due incidenti stradali ed è già al collasso, quindi vabbè, poi il pronto soccorso è quello, ma per carità di Dio, roba da terzo mondo. Ma che cazzo pronto soccorso? Ma se tu consideri quanti abbiamo ospedali a Sassari? 2, 3, quanti sono? Ci sono 120 posti letto. A Matteroldia, cazzo, solo in uno ci sono 400 posti letto, ma di qua stiamo parlando. Apri Policlinico o apri San Camillo a Puglia che ce ne sono posti letto. So che sono delle merite teste di. Se mai capito? San Camillo, domani apre a San Camillo gli ha intasato così con tutte le esaurite che vi so in giro. Vabbè, però ci sono le ali, la verità ci sono le ali libere, solo che sono tonti, sono stupidi. cioè, per prendere come pagarsi un albergo, buttarci via i soldi invece di pagare quelle strutture, cioè, ce li hai già le strutture, basterebbe solo allestirle e ce li hai, solo che sono talmente tette di cazzo che lasciamo perdere, va. Problema che vi ho sentito, stavate parlando di questa cosa che... capito, vi ho sentito che sono intervenuto. Ecco che io vado a dire i calamari. Ma i calamari, i totani. Troppo si mangia. E un'altra cosa c'è, Ciantu. E un'altra cosa c'è, che non ci sono solo quelli che hanno coronavirus, ci sono anche pazienti che hanno altre patologie. Per dire, io che ho il diabete sono stato abbandonato completamente, non posso andare lì, mi mando le analisi e non mi rispondono via email, cioè io gioco un brutto abbandonato, mi sto curando io, me la sto facendo io la cura, se vedo che ce l'ho un po' più alto mi faccio qualche cc in più di insulina e basta, tutto lì, tutto lì. E poi con il resto non mi stanno visitando. E già tu, grazie a Dio, conosci un po' la medicina e vai avanti, ma quei poveracci del reparto oncologico ne vogliamo parlare, eh? Cioè persone che hanno tumori, persone che, cioè, i reparti sono completamente abbandonati, è chiaro che è così, perché secondo loro stanno dando priorità al Covid, ho capito, il Covid va bene, posso anche capire, ma cazzo, sono persone che hanno bisogno di cure, come quelli appunto che hanno tumori, e sono abbandonati, perché l'altro giorno a Vidiolina c'è stata una manifestazione proprio tra Sassari, Cagliari e Olbia, che i reparti sono in stato d'abbandono, si stanno preoccupando del Covid ma non di chi ha un tumore e va curato, capito? Ma infatti c'è la stessa gravità che ha un tumore, se non viene vengono fatte le terapie che devono fare ci può rimanere, non è che è così, diciamo, facile da scartare una cosa del genere, ma diciamo che anche i diabetici hanno bisogno di un supporto di un medico, perché il medico ti dice cambiamo cura, facciamo questo, proviamo quest'altro, capito? Per vedere se migliora. E non è che io sia un medico, però grazie a Dio un po' già mi arrangio, come hai detto tu. Come tanti diabetici che hanno diabete da tanti anni sanno come si devono comportare, fanno qualche unità in più se vedono che altro e via. Però intanto lo sei seguito, non ti senti non coccolato, diciamo, non ti senti seguito, ecco. Certo che sì, sono d'accordissimo con te, te lo dico perché anche mio fratello non ha la stessa situazione. Noi ogni 3 mesi andava a controllo, eccetera, adesso praticamente è a rasura, anche lui si sta curando da solo, però cosa la dobbiamo fare? Io spero che ci sia un passaggio da 100 a 0, sia per quanto riguarda il Covid, sia per quanto riguarda tutte le patologie in generale, perché purtroppo chi ha delle patologie, chi è malato, chi ha bisogno di cure deve essere curato, non è che lo può abbandonare uscito. Marco, tu non esci, di qua stai preoccupando, esci pochissimo, quando esci proteggiti in modo che non hai problemi con mamma, mamma lasciala a casa, tranquilla e serena, anche mia moglie è sempre a casa, mia figlia, vabbè, lei ha contatto col pubblico, però non esce a fare lavoro a casa lavoro, ma è protetta, mia moglie è sempre a casa, esco solo io, purtroppo bisogna fare così, dobbiamo cercare di aiutarci e di capire che questa cosa non è da sottovalutare, soprattutto per le persone anziane. Vai Marco. Ehi, lo so, solo che sai cos'è, anche se usi il gel quando entri nei negozi, cioè che ne so, tocchi la roba esposta che qualcuno avrà messo, magari con i guanti luridi, torni a casa, vai a disfare la spesa, ritocchi, magari appena torni a casa lavi le mani, disfi la spesa, tocchi le cose che avevi toccato prima che magari sono contaminate, cioè, c'è un'infinità di modi per rimanere contagiato, capito? poi ho il vizio di mettermi, toccare gli occhi, toccare il viso, mettermi le dita nel naso, quindi così, è più forte di me, è un vizio, è che come chi si mangia le unghie, capito? Ieri ero un po' ambigua a me sta storia, c'era un po' di mal di testa e 36,8 di temperatura, che non è niente, sotto i 37 non è niente, però sai, la psicosi no, che ti prende. Oggi io sono andato a comprare la carne e stavo facendo la fila fuori, anzi c'erano questi due zingari, una coppia di zingari, che praticamente ogni volta che io andavo avanti loro si avvicinavano e loro si avvicinavano, alla fine glielo dentro, devi stare un metro di distanza, è inutile che tu, ma io ho mascherina, ma a me non me ne frega nulla, devi stare un metro di distanza, appunto, non puoi stare attaccata a me, che ma lì c'è caldo, tu sei all'ombra e lì c'è caldo, ma ho capito, poi di alla tabacca, a me non me ne ha fatti nulla se c'è caldo, però cazzo, cioè non puoi venire addosso a me perché c'è caldo. Allora sono immuni, sicuramente sono immuni, no, manco il Covid li prende. Li protegge la rotta. Ehi, fa da schermo, mi, da scudo. Non scherzare, perché loro hanno delle difese immunitarie superiori alle nostre, perché siamo tutti, il corpo, il fisico produce più difese immunitarie. Vabbè, che io mi sono immunizzato con la macchina, con la macchina... Claudio già lo sa. Ma non c'è questa macchina di Marco? Ho già, cazzati per tanto che lui abbia entrato. L'ho vista anche io al quadrato, una volta che vi devo portare il microfono, ce l'ho dimenticato, è venuto e non me l'ha portato. Ha aperto lo sportello e ho detto, Dio me ne scappi i libri, cazzo, pariva la discarica. Sì, che poi molte erano bottigliette, carta, così, e non solo, che ne so, confezioni di tramezzini mangiate in macchina, buttate dietro, ogni tanto faccio le pulisti, ma solo ogni tanto. E ti piace fare lo zingaro anche a te. Tu Claudio, te lo ricordi quello che faceva, che viveva con gli zingari di Porto Torres, che era un Porto Torres e però viveva con gli zingari, lo conosci? Che viveva con gli zingari, ma cosa stai dicendo tu, come fa? No, non è niente. Ignazio è morto, poveraccio. No, non era lui, no. Ignazio già viveva conto suo. Era uno del villaggio verde. Già, se c'è qualche foto che me la mandi, ti posso dire se lo conosco, però così no, io sono dall'85 qua a Sassari, quindi magari se lo vedo sì, ma no, così a nome anche non lo so. Sei andato da casa e viveva insieme agli zingari, capito? Ui, per carità. E poi c'era candidato anche alle elezioni a Porto Torres, c'era candidato, adesso non mi ricordo in quale elezioni, però c'era candidato una volta. E vabbè. Sono scelte di vita. Un candidato, non so, bisogna che lo vera, dai. Massimo si chiama. Massimo. Ma Picacito stai dicendo? No. Picacito riconosce tutti. No, non è... Una volta quello lì, adesso che me l'hai nominato, ci hanno chiamato in quel bar che c'è all'entrata di Porto Torres, era Cotto di Pippa, quello dei fratelli, quello grande. Adesso in ambulanza ha preso, ha detto, mi dilagava che mi dati il vaccino, ci dilagava della dentiera con l'erba bambina, ha detto, ma senti quella dentiera! Non me lo ricordo io. Vabbè, quello piccolino, poverino, vendeva il pesce, si attava la mattina presto, andava a pescheria a prendere il pesce, fa la fetta grande, vendeva balloncini, di tutto. E gente che lavorava. La sorella di quello, Giustina, di quelli lì, Giustina, di Cacizzo, una vita al bar cristallo lavorava. Ma tu stai dicendo Antonello, l'hanno messo sotto con la bicicletta in via delle vigne, poveraccio. Io lo so. C'era anche mio fratello in colonna, figurati. Per carità, cazzo, non l'ho visto, ormai non l'hai visto. Ma... bene signori, dai, io vado a pappare, sono già le 8:30, vi saluto, grazie alle due chiacchiere, mi rimetto il mio pigiamino e qua chiudo tutto e vado nel salone. Ciao Marco, ciao Gianni, Gianfranco se sei ancora all'ascolto, chiunque sia sul canale 10. Buon fine serata a tutti, a domani se coincide, vai Marcoli. Ciao Claudio, buona serata, buon tutto e ci sentiamo alle prossime quando capita. Vai Gianni. Ciao Claudio, buonanotte. Dai. Comunque non è che quello che non ha visto, ti posso dire che io ho visto tutto perché sono passato la mattina e praticamente ha saltato quel cordolo la macchina dopo che ha messo i soldi sotto a lui e c'è tutta un palo. Infatti lungo 10 dalla salpata della carreggiata. Ma fratello, io purtroppo abito a Sassari, però matto che era una cosa allucinante, tu vedi. Perché ci ha domandato un cane, che un ragazzo bravo, che lavorava, non era altro che venire dai grigi, comunque già era una bravissima persona. Vabbè, dai, ciao ragazzi, vado a portare, c'è fame, e tu il cane ci ha portato là già? No, stanno da adesso, dai, saluta Marco, adesso è vado, dai. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, Ted. K già, ciao, buona serata, buon tutto. E ci sentiamo le prossime, ok? Ciao a tutti. Ciao Marco, ciao. Ciao a tutti. Sono pure che la parte mia. Ehi ragazzi.